voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Sometimes my sister, she show her vagina to my brother Bilo and say, you will never get this, you will never get this, la la la la la. Here behind this cage, crazy, crazy, everybody laughs. She go, you never get this. But one time he break a cage and he get this. And then we all laugh, high five. Now, no, that would not be funny in America, okay? Base alleata di Agnano, Napoli, 6 gennaio. Lo avevano portato lì poco prima di Natale. Un regalo per la truppa e il pezzo forte per il nuovo circolo ricreativo. Poi Merry Christmas, Happy New Year, ritorno in famiglia, vacanze. I lavori erano stati sospesi e l'avevano lasciato lì, a far compagnia a due poltrone, un tavolo, il vecchio jukebox e la foto del presidente appesa al muro. Che razza di situazione! L'inattività era davvero snervante. Dubbi e ipocondrie assalivano la fiducia in se stessi. Sarò ancora capace di fare bene il mio lavoro? Riusciranno a farmi funzionare anche qui, così lontano da casa? Tornerò a far ridere la gente, a interessarla con le notizie, a commuoverla? McGuffin non aveva risposte. Si consolava ripensando alle glorie passate e ogni tanto, per non lasciar morire la speranza, sbirciava fuori dalla porta in attesa che qualcuno si prendesse cura di lui. Finito di assemblare il 16 febbraio 1953 nelle fabbriche della McGuffin Electric presso Pittsburgh, Pennsylvania, era stato uno dei primi modelli deluxe sfornati dall'azienda. A fine mese la famiglia Benton lo aveva acquistato in un negozio di elettrodomestici di Baltimora. Fin dai primi vagiti, McGuffin si era dimostrato un televisore fuori dal comune. Il 5 marzo, dopo nemmeno un mese di vita, aveva esaltato il padrone di casa con la sensazionale notizia della morte di Iosif Vissarionovich Giugasvili, meglio noto come Stalin. Grazie allo schermo a luminosità fisiologica, nessuno della famiglia si era stancato gli occhi seguendo l'interminabile diretta della sentenza contro Ethel e Julius Rosenberg, accusati di spionaggio a favore dell'Unione Sovietica e condannati a morte. Sul cinescopio rettangolare da 17 pollici, anche nonna Margaret, una ultra ottantenne mezza cieca, era riuscita a distinguere le poche immagini della firma dell'armistizio a Panmunjom, in Corea. Era il 27 luglio. Nemmeno un mese dopo, McGuffin aveva annunciato che Mosca possedeva bombe termonucleari sul genere di quelle sganciate a Hiroshima e Nagasaki. Era stato il suo ultimo scoop. Da allora, più niente. Lo avevano spento in una sera di metà agosto per non riaccenderlo mai più. Questo era ancora 54 di Wu Ming. No. Visto che l'avevo citati durante la prima parte di Eclettica, mi è sembrato giusto andarli a riprendere, ovvero sia gli Orba Squara che con Perfect Timing This Morning hanno aperto la seconda parte in compagnia di Giulio Caperdoni, come tutti i giorni, sulle frequenze di Rock FM fra le 19 e le 20. È proprio questa la canzone che viene utilizzata negli States nello spot dell'iPhone, in Italia ovviamente no, visto che l'iPhone ancora non è commercializzato. Ne avevo parlato nella prima parte a proposito di José González, anche lui diventato famoso grazie ad uno spot pubblicitario. Hanno poi seguito i Celebration, sempre Stati Uniti quindi, con Tame the Savage, ed ora invece una novità in uscita nei prossimi giorni dalla Germania. L'etichetta è la Compact e vede assieme due personaggi tipicamente che sono più legati a suoni minimali, in questo caso invece prendono suoni un po' più ricchi, un po' più grassi. Sto parlando di Michael Meyer e Axel Schauffler, quest'ultimo più conosciuto con il nome di Super Pitcher. Il progetto che li vede assieme si chiama Super Meyer, l'album invece Save the World, dal quale l'estratto è The Art of Letting Go. Thank you. What is a not joke? A not joke is when we're trying to make fun of something, and what we do is we make a statement that we pretend is true, but at the end we say not, which means it's not true. So teach me how to make one. All right. What color is your suit? This suit is gray. Gray. I would call it blue, okay? It's gray. All right. It's blue-gray, but it's certainly not black, right? All right. Let's say it's gray, but it's not. It is gray. Okay. So a not joke was, I would say, that suit is black. Not. This suit is not black. No, not has to be the end. Okay. Okay. This suit is black, not. This suit is black. Pause. You know what a pause is? Yes. This suit is black. Not. This suit is black. Pause. Not. No, you don't say pause. This suit is black. That's a pause. Not. This suit is black. Okay. I'm not. Dichiarazione resa l'8/1/1954 al commissario DPS Pasquale Cinquegrana in merito alla scomparsa di un costoso apparecchio televisivo di marca americana dalla base militare delle forze alleate di Agnano, Napoli. Mi chiamo Pagano Salvatore, nato a Napoli il giorno 21 luglio del 34. Mia madre di nome faceva Carmela, ma tutti la conoscevano Nennella, in particolar modo ai Vergini. Il rione Vergini. Mio padre non so e non dico altro. A me però gli amici, i cavallari di Agnano e altri amici ancora, mi conoscono Cocis. Vabbè, pure Totore Amaron, ma di più Cocis. Non avete capito? Cocis, con la K. Vabbè, che nelle lettere nostre non ci sta, mentre in quelle americane e straniere sì. La K, dico. Come? Non lo conoscete il grande calciatore ungherese? Cocis. Faccio il calciatore io? No, ma che significa? Numero uno perché io il pallone lo so giocare davvero, anche se ho quasi 20 anni. Se ero più fortunato potevo pure riuscire, ma non importa, perché questa cosa del nome l'ho avuta per un fatto che col pallone non c'entra. Oddio, c'entra, ma è un'altra cosa. Insomma, tenete presente quella grande squadra che è l'Ungheria, che quest'anno ucciderà tutti nella Coppa del Mondo che si gioca in Svizzera? Insomma, dentro l'Ungheria ci stanno certi giocatori e ce n'è uno che fa certi gol con la testa, come vi devo dire, preciso, una sentenza. Lui e Puskas segnano reti a carretta, un finimondo. E questo qua li fa quasi tutte con la testa. Mai visto. Cocis. Ecco, dovete sapere che, insomma, certi amici e altri amici ancora, voi lo sapete come sono gli amici, pazzeano. Insomma, mi chiamano così per il fatto che loro dicono che quando faccio discussione con qualche malamente che non sa campare, cosa che non succede quasi mai, sia chiaro, ecco, insomma, quella rara volta che succede che poi chi sei tu, chi sono io, poi escono fuori le mamme dalle bocche, chi si è visto, voi mi capite? Ecco, insomma, loro dicono che io li colpisco con la testa, ma sarà stata una volta, due al massimo. Lo sapete gli amici come sono, e loro dicono che li addormento, e così mi hanno dato quel nome là. Ma non era importante questo, scusate, perché prima di tutto vi devo dire che con questo Sant'Anna di guaio di televisore io proprio non c'entro. Questo era ancora 54 di Wu Ming. Già scioglie vincoli, scopra al vento il mio dolore, colmo il vuoto con i simboli, mentre fuggi via da me. L'immagine di te, l'immagine che il desiderio non fa spegnere, l'amore Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 49, volume numero 2. Indice, Sea Bear, José González, Spoon, I Like Trains, Solo in Casa, Boat, Orba Squara, Celebration, Super Mayer, Schooner, Radio Dervish. Giulio Cappardoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda a domani, ovviamente sempre alle ore 19, sulle frequenze di Rock FM.